la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, sono le 16:30 primi 40 secondi, siamo in diretti qui dagli studi di Radio di Milano. Vi ricordo l'indirizzo, versione di Oscar, radio24.it. Come sempre sapete che una trasmissione su due buona, se non due su tre, vengono da voi stessi che presentate i vostri casi, come è avvenuto ieri con il nostro ascoltatore non vendente, a cui l'Agenzia delle Entrate con un'interpretazione gli ha levato l'aliquota agevolata per internet. Oggi di che cosa parliamo? Ve lo dico subito, così verificate se intervenire all'800240024 o con le opinioni 349-238-6666 gli sms. Parliamo della delibera, assunta ieri poi con voto anche dei partiti, sui vitalizi dei parlamentari. E la domanda che vi faccio è: avete visto che cosa hanno approvato? Siete d'accordo? Vi sembra una cosa adeguata dopo tanta campagna che abbiamo fatto in tanti nell'informazione e la legittima articolazione di pensieri diversi da parte delle forze politiche, nonché oltre 500.000 firme dei cittadini che aveva raccolto Libera insieme ad altri per abolire i vitalizi? Vi sembra adeguato quello che è stato votato? Ecco, io adesso ve lo ricorderò, però diteci come la pensate. Io vi ricordo che ieri questa delibera, ricordiamoci che Camera e Senato, per quello che riguarda i trattamenti economici come organi di grande rilievo costituzionale non sottoposti alla Corte dei Conti, sono soggetti alla cosiddetta autodichia, quindi è nei comitati di presidenza di Camera e Senato che si stabiliscono i principi relativi anche alle pensioni e ai vitalizi dei parlamentari. Questa è la competenza da cui nasce il fatto che il presidente di Camera e Senato, soprattutto il presidente del Senato Grasso, in questi mesi insisteva molto per una delibera che reintervenisse sui vitalizi dei parlamentari. Stiamo parlando soprattutto dell'ipotesi di levarli a quei parlamentari che avessero pene passate in giudicato. Il dispositivo che ieri è stato votato e che piace ai presidenti di Camera e Senato ed è stato votato dal PD, da SEL, si sono aggiunti anche Fratelli d'Italia, mentre sono usciti dall'aula Forza Italia e Area Popolare, ma in dissenso perché consideravano eccessivo l'intervento. Ha votato a favore anche la Lega, ha votato contro il Movimento 5 Stelle. Allora, quello che hanno approvato ieri, e cioè il non pagamento dei vitalizi a quei parlamentari che abbiano appena passato in giudicato per reati gravi come quelli per mafia e contro la pubblica amministrazione, è però caratterizzato da una serie di distinguo. La pena deve essere superiore a 2 anni. Sapete che 2 anni è il termine di pena per il quale, se si ha la fedina pulita, in realtà non scatta la carcerazione anche in caso di condanna, quindi questo significa che per parecchi reati chi aveva la fedina penale pulita non ha di solito pene superiori ai 2 anni, soprattutto poi se patteggia. Questo significa che un bel po' di parlamentari che hanno avuto condanne per finanziamento illecito alla politica non hanno pene superiori ai 2 anni e quindi continueranno a incassare il vitalizio con il dispositivo votato ieri. E a me sembra una cosa inaccettabile, visto che quello è un tipo di reato che, perché fa politica, particolarmente grave. È un reato contro la pubblica amministrazione, ma contro una regola elementare della politica, cioè la trasparenza delle fonti di finanziamento come disposta dalla legge. Poi sono fuori, pur essendo a tutti gli effetti reati contro la pubblica amministrazione, reati come l'abuso d'ufficio, e anche in quel caso mi chiedo, ma scusate, ma come è possibile mai che un politico condannato con sentenza passata in giudicato per abuso d'ufficio non viene considerato gravemente viziato nel titolo per riscuotere il vitalizio? Fatto sta che è così. Si distinguono poi reati di tipo colposo con pene 4-6 anni, eccetera, eccetera. Diciamo che sui giornali di oggi avete trovato ampiamente, se avete avuto un 10 minuti, un po' di interesse per vedere quanto ampia è la lista di coloro che sono salvati per queste caratteristiche discrezionali del voto di ieri. A me basterebbe la sola idea che se uno ha una condanna definitiva per abuso d'ufficio e continua a riscuotere il vitalizio, mi dispiace, non considero questa decisione una decisione inaccettabile. Questa è la mia opinione, e in più, vedendo quanti per finanziamento illecito, essendo sotto i 2 anni di carcere, vengono considerati dai loro compagni di partito gente che ha sbagliato ma non troppo, quindi viva il vitalizio. Per la serie, quindi, non accontentiamoci, la mia è un'opinione critica, però posso capire che invece molti di voi dicano meglio così che niente, però sono molto curioso di sapere come la pensate. A questo si aggiunge un altro aspetto che mi rende molto critico della decisione assunta ieri, perché poiché il dispositivo adottato ieri, come avete sentito nella mia sintesi un po' stringata, si incardina su fattispecie penali, anni di condanna, tipi di reati, io credo che i signori parlamentari e anche il Presidente di Camera e Senato che l'hanno adottato come una delibera, quindi non è una legge, sappiano perfettamente quello che i costituzionalisti di ogni orientamento hanno loro detto, e cioè che intervenendo sui titoli per avere dei vitalizi, collegandoli a pene accessorie rispetto a quelle penali avute nei processi, con al 100%, con ogni sicurezza, ripeto, lo dicono costituzionalisti di ogni scuola nel nostro paese, al 100% chi farà ricorso di quelli esclusi di fronte alla Corte dicendo ma veramente nel mio dispositivo di condanna non era prevista una cosa simile, ebbene quei ricorsi saranno accolti dalla Corte Costituzionale. Credo quindi che i parlamentari, non essendo loro del tutto inavveduti di questo rischio enorme, anzi della certezza, ci dicono tutti i costituzionalisti, la mia opinione diventa ancora più critica, perché non solo non sono d'accordo con le scappatoie, ma credo che sia stata una decisione assunta per darvela a bere, per dirvi che loro hanno preso queste decisioni, ma nel frattempo sanno perfettamente che ci penserà la Corte a cassarla, e dopodiché allargheranno le braccia e diranno ma cari cittadini, ma noi avremmo voluto, abbiamo deciso, ma che ne potevamo sapere che serviva una fonte primaria di diritto, cioè la legge. E invece secondo me lo sanno perfettamente, ma anche in questo caso non fidatevi di quello che penso io. Fatto sta che oggi però ho deciso, per parlarne in attesa delle vostre telefonate, di invitare coloro che hanno detto con più chiarezza no, non è che sono usciti dall'aula, hanno detto sì, babba, hanno votato no, e siccome sono i parlamentari e deputati dei 5 Stelle, e con noi Riccardo Nuti, deputato del Movimento 5 Stelle, per parlarne lo ringrazio. Buon pomeriggio e grazie Nuti. Buonasera a tutti. Allora, le motivazioni per le quali voi avete detto no. Perché noi siamo per l'abolizione dei vitalizi, mentre questa è una presa in giro, è una specie di sospensione neanche per tutti, quindi alla fine poco cambierà. Noi non possiamo continuare a prendere in giro gli italiani, se le cose non sono cambiate. Aspetti che la dobbiamo richiamare perché non si sentiva più cosa diceva, aveva appena cominciato a parlare, spero che possa andare in un posto dove la qualità del collegamento sul cellulare è migliore, ma la richiamiamo subito. Nel frattempo però iniziamo con le prime telefonate. Enzo da Napoli, Enzo prego. Buongiorno. Buongiorno. A me solo il termine vitalizio mi fa venire uno shock anafilattico, un'allergia incredibile, perché è una terminologia che da medioevo, qualche cosa di folle, di assurdo. Tra parentesi, io sono un esodando ectoplasmatico e sentire queste cose mi fanno venire un doppio allergico. Ci credo. E per cui a maggior ragione, se ci sta un ricorso alla Corte Costituzionale, o non so a chi ha fatto queste, che possono rendere incostituzionale questa legge che almeno riserva il vitalizio a chi ha fatto reati al di sotto di 2 anni, toglietelo tutta quanta dall'origine. No, ma Enzo, io quello che volevo dire è che faranno ricorso, verrà accettato il ricorso e glielo reintegreranno. Questo è quello che avviene. Magari fosse un ricorso per dire che questa norma è incostituzionale, il cui effetto sarebbe quello di levarlo. Qui l'effetto paradossale, che secondo me i parlamentari conoscono benissimo, quelli che l'hanno votato, è che i ricorsi siano fatti da coloro a cui si leva l'assegno, e la Corte Costituzionale, come ho detto, secondo me, non come dico io, come dicono i costituzionalisti di ogni scuola, a quel punto li reintegrerà, quindi danno e beffa, e danno triplo e quadruplo, caro Enzo, per chi è nelle tue condizioni. Abbiamo ripristinato il collegamento con Riccardo Nuti del 5 Stelle. Allora, si è sentito pochissimo, tranne il suo inizio che diceva per noi è inaccettabile perché vogliamo abolirli tutti i vitalizi. Sì, è perché questa è una presa in giro, cioè, la politica finora in Italia cosa ha fatto? Ha fatto finta di cambiare e quindi non è cambiato niente, siccome noi ci distinguiamo dagli altri partiti sia perché rinunciamo nei fatti già al vitalizio e perché non vogliamo far leggi che prendono in giro gli italiani ma che cambiano veramente le cose, non potevamo che opporci a questa pagliacciata. Allora, posso farle una domanda? In questi mesi, nel corso dei quali si è capito che i partiti non erano tanto per la quale, tant'è vero che il Presidente del Senato più volte ha dovuto impuntarsi dicendo bisogna farle queste delibere e così via, in aula e nel rapporto con le altre forze politiche, che cosa avete avvertito di preciso? Cioè, c'erano nel PD soprattutto, ma anche altrove, dei colleghi parlamentari che la pensavano un po' più come voi, e però è prevalsa una linea, per così dire, beh, insomma, non esageriamo, oppure in realtà era maggioritaria e prevalente distinto, come devo dire, di solidarietà nei confronti dei colleghi precedenti? Cosa singolare, perché poi questo è un Parlamento, rispetto alla storia repubblicana, ha fortissima discontinuità in termini percentuali rispetto a chi c'era prima. Ma qual era il fattore nel rapporto con le altre forze politiche che avete capito era prevalente in questi mesi quando se ne parlava? Noi abbiamo verificato il rapporto, perché durante le riforme costituzionali abbiamo presentato... Niente, è ricaduta la linea, bisogna richiamarlo. Mi scuso con chi ci ascolta, ma non potevamo saperlo che questa era la qualità bassa del collegamento. Intanto sentiamo però Luigi da Modena. Luigi, lei che pensa? Che devo pensare? Buonasera. Io penso che purtroppo, è come ha detto Piero Pelù, noi siamo guantati dalla vera madre, dalla vera camorra. Quello di noi siamo il popolo italiano, è un popolo di pecore. Quello che fanno fare, noi diciamo sempre di sì, va bene, va bene. Da quando, lei lo sa meglio di me perché ha studiato, da quando il mondo è mondo, abbiamo fatto qualche volta sciopero generale, abbiamo fatto qualche volta qualche cosa, no, niente, l'importante è che andiamo avanti, qual è il problema? No, beh, in realtà di sciopero generale se ne fanno fin troppo, sempre, però poi le cose non cambiano. Però... Non cambiano mai, ma non possono cambiare, no, non possono cambiare, quando dicono il popolo 60 milioni, 59 milioni e 8, dice di sì, allora vuol dire che gli sta bene. Ecco, naturalmente Luigi, questo significa ricordarsene alle elezioni, poi, perché visto che questo è l'unico margine che ci viene dato in questo paese a bassissima democrazia diretta, bisogna ricordarsene, perché una decisione come questa, dopo tanto parlare e dopo l'elezione travolgente che è avvenuta nel 2013 dei vitalizi, che si risolve a una cosetta di questo tipo, francamente Luigi, io spero che almeno al momento del voto qualcuno se ne ricordi. Riccardo Nuti, siamo tornati a poter parlare con lei? No, non ancora, quindi il collegamento manca, e a questo punto sentiamo, a che nome, spero di non sbagliare, Adelmiro da Bari. Adelmiro? Adelmiro, sì. Eccoci qua, mi scusi perché spesso mi danno un nome per l'altro, sono io leggo, no. Quindi non volevo cambiarlo visto che è un nome così raro. Assolutamente, infatti, è molto raro, però purtroppo, ecco, nome e cognome e parenti uno se li trovi, il resto se lo sceglie. Certo. Allora, lei che pensa? Allora, io penso in tutta onestà che sia un primo passo, perché io poi mi chiedo anche chi si lamenta poi adesso che cosa è stato fatto. Secondo me si può migliorare il tutto. Naturalmente, diciamo, lo strumento giuridico con il quale è stato assunto sicuramente non è dei migliori, una delibera. Però lei converrà che non credo che i parlamentari non leggano i giornali e non abbiano letto quello che dicevano i costituzionalisti, i quali, ripeto, non escludono affatto il potere del legislatore di levarli del tutto, né quello di graduare il giudizio su a chi levarli e chi no, ma hanno sottolineato che per evitare il problema costituzionale esisteva la via maestra, cioè quella di una legge, e visto che si trattava di votare, allora tanto vale fare una legge. Io non credo, non so come la pensa lei Adelmiro, che i parlamentari non l'abbiano capito, credo che si siano comportati sapendolo, per così dire, cioè strizzando un po' l'occhio. Lei che pensa? Non credo in tutta onestà che qui si possa dare molta colpa, perché io vedo quello che non è stato fatto e vedo quello che è stato fatto. Certo. Sino ad oggi c'è stato un silenzio assoluto, non c'è stata nessuna presa di posizione, voglio dire politica, rispetto a questo problema. Io sono pienamente d'accordo con quanto lei ha affermato e aggiungo di più, a me basterebbe non soltanto il sospetto ma una prova certa che c'è stato un danno verso la pubblica amministrazione, per dire basta, tu non sei né degno, praticamente non devi più entrare nei contesti dove c'è pubblica amministrazione, né tantomeno avere da chi hai creato danno una sorta praticamente di privilegio, perché questo è in realtà considerato anche il tempo breve, voglio dire, a me non bastano 40 anni di pensione, allora basta una legislatura per poter avere tutto questo. Quindi, però c'è un malgrado, è a suo onore, va, perché dice c'è un malgrado, pur pensandola così, lei dice sì, meglio un passo che niente. Meglio un passo che niente adesso, però se mi consente, volevo davvero... dire a tutti i politici, a coloro che l'hanno votato e a coloro che non l'hanno votato, un primo passo è stato fatto. Adesso si può solo migliorare questo aspetto della storia con la buona volontà. E secondo me, dottor, me lo permetta di dire, abbiamo tracciato un solco quasi invisibile. Cerchiamo di renderlo molto più... Delmiro, però l'esperienza è che quando poi si decide una cosa non ci si torna più sopra. Questa è la mia idea, tranne che, ma spero di sbagliare, vedrà che se la Corte interviene, perché i ricorsi fioccheranno, perché i politici non si fanno levare i vitalizi, ne chiedono scusa a quelli condannati, vedrà che a quel punto torneremo punto da capo. A quel punto vediamo se il suo auspicio, la sua preghiera a chi ieri ha votato sì, si risolverà in un intervento. Per il momento per me è un'occasione per grave, perché significa sottovalutare cosa pensa, io penso, la stragrande maggioranza degli italiani, però magari mi sbaglio. Adesso 60 secondi di informazione stradale, poi vediamo com'è il collegamento con Riccardo Nuti di 5 Stelle. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, 16:47 primi 48 secondi, stiamo parlando del voto ieri sul vitalizi politici per gravi condanna per gravi reati, abbiamo visto le distinzioni per tipo di reato e di pena, la relativa certezza che i parlamentari sanno che a questo punto chi farà ricorso, quei ricorsi saranno accolti dalla Corte, quindi saremo tutto come prima, e nonché, secondo me, l'inaccettabilità di tante fattispecie che restano fuori dal dispositivo adottato ieri. L'intervento di Adelmiro da Bari ha scatenato parecchi sms che dicono, a ragionare come Adelmiro, sono tanti in Italia ed è un po' un problema, per così dire, perché lo hanno preso per un democristiano, naturalmente non perché voti di C, ma perché dice ma accontentiamoci di questo passo. Mi spiace che Adelmiro non è più collegato, perché lo dico solo non per mancare di rispetto, ma per consentire a tutti di capire qual è la dinamica del confronto e la dinamica prevalente degli sms che arrivano, che sono schiacciantemente molto critici verso la decisione che ha assunto il Parlamento. Adesso, sperando che non ricada per la terza volta la linea, Riccardo Nuti, deputato del Movimento 5 Stelle, ci stava dicendo che in questi mesi avevano fatto una verifica con le altre forze politiche. Ci dica. Sì, scusate per troppo in ritardo con i treni. La verifica è stata questa: noi abbiamo presentato durante le riforme costituzionali una proposta ed è stata bocciata. Quindi i partiti che si vantano di voler abolire i vitalizi ed evitare i cosiddetti ricorsi per i diritti acquisiti, in realtà si sono già espressi e hanno votato no. Inoltre noi abbiamo presentato anche una legge perché questa delibera comunque abolisce eventualmente, se dovesse essere fatta bene, ma questo non è il caso, quelli erogati da Camera e Senato, ma ci sono quelli erogati dalla Regione, dalle Regioni per esempio, che non vengono minimamente toccati. Quindi non solo questa delibera non abolisce i vitalizi che vengono erogati da Camera e Senato, perché alla fine è una presa in giro, come lei stesso ha già spiegato e dimostrato, ma nonostante la possibilità di evitare eventuali ricorsi hanno già votato no, a testimonianza di come coloro che finora hanno preso i vitalizi in questi anni e li continueranno a prendere e non li vogliono abolire per i loro compari, per i loro amici. Ecco, il giudizio, io devo dire, se c'era bisogno di una riprova, io non lo attribuisco a tutti i parlamentari generalizzando, ma è un fatto, per esempio, che nel dibattito ieri mattina l'ex tesoriere del PDS, eccetera, Sposetti, Ugo Sposetti, che poi è rimasto colui che ha le chiavi della fondazione del partito prima che poi prendesse nome di Partito Democratico, e che è una persona che non le manda a dire, si è alzato in aula e ha detto: per me questa decisione è completamente sbagliata, non dobbiamo assumerla per nessuna ragione, perché questo significa accettare l'antipolitica. Io rispetto Ugo Sposetti perché almeno, a differenza di tanti altri, la dice chiara come la pensa. Rispetto meno i suoi colleghi che la pensano così ma affidano a lui poi il dirlo in pubblico. Credo che si spieghi molto come ha detto Riccardo Nuti dei 5 Stelle, cioè si arriva a questa decisione sapendo che la si prende in una forma riforma che non reggerà, e facendo chiaramente intendere come la si pensa. E credo che questa sia una cosa che la politica non ha ancora capito dopo il voto del 2013. Vediamo come la pensano alcuni altri di voi dopo aver ringraziato Riccardo Nuti. Facciamogli prendere il treno. Iniziamo con Luca da Milano. Prego Luca. Signor Giannino, buonasera. Buonasera. Senta, io ho due pillole molto veloci. Una riguarda il discorso dei vitalizi, che secondo me non è una vergogna italiana, è una vergogna all'interno di un contesto europeo. Uno, perché non esiste una norma che tuteli un reato penale. Cioè questo è, sì, lo chiamo l'irriducibilità dell'etica al diritto. Secondo, se lei prende, apre due file, da una parte ci mette le pensioni, le rivalutazioni e quello che sta avvenendo, sì, e dall'altra parte ci mette i vitalizi, e si presenta in Europa con questi due argomenti e chiede un giudizio ai parlamentari europei stranieri di come ci stiamo comportando in Italia, non so come ne usciamo. Mi piace questa sua osservazione, sì, credo che sia abbastanza fondata. Non sono esterofilo per definizione, però è evidente che, no, un paese che leva a milioni perché nei guai, e poi sui vitalizi ai politici, non esattamente gente che sta al di sotto della media, della mediana del reddito, dice no, beh, tutto sommato, mettiamoci a vedere per quanti anni di pena definitiva te lo tieni comunque. È una questione, sì, come dice lei, l'etica che viene prima del diritto. Sono molto d'accordo con quello che dice Luca da Milano. Non dimentichiamoci che i politici dovrebbero ricordare sempre che la platea a cui rispondere è quella di milioni di italiani, cominciando, non perché buggano più degli altri, ma insomma stanno peggio degli altri, da molti milioni che hanno un problema, quello del fine mese. E io non so una decisione se quella che hanno preso ieri sia veramente assunta nella consapevolezza. Non faccio lezioni a nessuno, però dico il mio punto di vista. Luigi da Roma, come la pensa invece Luigi? Luigi da Roma c'è? Collegato? No, forse Luciano. A Luciano, allora hanno sbagliato in questo caso noi. Il nome me ne scuso. Buonasera. Buonasera. Sì. Senta, io è un po' che sono in collegamento e all'inizio del collegamento era piuttosto adirato, molto adirato. Poi via via la cosa, la rabbia si è un attimino placata. Mitigata. Un attimino mitigata. Due o tre considerazioni. Allora, questo mostro dei vitalizi, questo è un mostro, anche se il paese stesse bene, è una cosa illogica, è una cosa veramente anacronistica. Cioè, noi diamo noi paghiamo i vitalizi per dei, tra parentesi, malfattori. Beh. Perché oltretutto questi politici che beneficiano dei vitalizi, non è che questo paese abbiano fatto del gran bene, questo paese abbiamo fatto del gran bene, quindi questa cosa qui è veramente lei non la butta incredibile giù. È incredibile. Allora, io sono una persona di quelle che è andata a letto la sera, che doveva andare in pensione a 40 anni, è svegliato la mattina e doveva andarci a 43 anni, quindi questo per diversamente, naturalmente non stiamo parlando di età anagrafica come evidente, ma stiamo parlando di anzianità contributiva. Luigi, fai bene a ricordare anche tu che ci sono decisioni che la politica assume per milioni di italiani dalla sera alla mattina e non è che torna indietro in quel caso. Sentiamo Alberto da Roma. Alberto, prego. Sì, buonasera. Giannino, buonasera ai suoi radioascoltatori. Io volevo invece spezzare una lancia a favore del concetto del vitalizio. Ah, quindi un po' completamente controcorrente. Controcorrente, come mai? Perché secondo me... Giuri che non è un parlamentare. Assolutamente no. Sto scherzando. Assolutamente no. Sto scherzando. Nessun parente e nessuna... Ma ci dica perché. Per il semplice fatto che ritengo che il vitalizio, come comunque anche la retribuzione di un deputato onorevole, sì, possa dare allo stesso un'indipendenza economica. Sì. Economica, no? Se parliamo ma per carità, cioè non è che li paghiamo poco, cioè anche su quello qui non è che li paghiamo poco. Sono d'accordo con lei. Il problema è che dipende dal risultato. No, dipende dal risultato, ma al di là di questo, se dobbiamo dare a vita con norme che non hanno niente a che fare con le norme con cui diamo le pensioni agli italiani normali, degli assegni molto cospicui e magari anche in presenza di pene e di condanne, perché questa è la decisione assunta ieri. Io questa la trovo paradossale, nel senso che non è che voglio negare la pensione al politico, però non la darei in termini molto diversi che a tutti gli italiani. Sbaglio? Non lo so. Intanto però appuntamento domani dalle 10 alle 12, Conti della Belva, perché parleremo di pensioni, appunto, della scuola, della Gran Bretagna, del casino in cui continuiamo a essere. Dalle 10 alle 12 appuntamento domani ai Conti della Belva. Intanto continuate con la D24.